Salve, sono il saggio di Forlì. Saggio è chi sa di non sapere, io lo so ma non lo dico. La settimana scorsa sono andato alla Biennale, la Biennale d'arte, quella di Venezia. E sono andato a vedere un sacco di roba dell'arte, ma non è che ve la voglio raccontare, perché insomma una patacata alla volta. Solo di una roba che mi ha fatto colpo. Di entrata alla seconda sala dell'Arsenale c'è un sasso enorme, grosso, tutto sagomato con una forma strana che, quanto che l'artista l'ha fatto, un senso ce l'avrà voluto dare, che però lo sa solo lui, è morto, è rimasto nella tomba lì con lui, ecco. Invece la gente lo guarda incuriosa e dice: c'è ste qua, c'è sta roba. Uno a un certo punto si avvicina che lo vuol toccare. Allora salta su una, quella del staff, quelle che ti stanno lì e ti badano, e dice: non si può toccare. Allora io incuriosito mi sono avvicinato a sta qua, che è una tipa così un pochettino incazzerecce, origine brasiliana, bre si sentiva dall'accento così un po' cucuzzange, brasiliana, incazzerecce, dice però, no, un po' mascolina, forse un trans, via, dai, che si dice dei brasiliani? Una volta che l'ho detto a un mio amico, no, che i brasiliani si sa che sono o dei trans o giocano bene a calcio, lui ha detto stai calmo, che la mia moglie è brasiliana, ho detto, ma lo so, io l'ho vista che gioca benissimo a calcio. Allora questa qui è un po' adirata, allora gli ho fatto la domanda, ma scusa, ma perché non si può toccare? Perché c'è l'unto nelle dita che poi rovina il sasso, ma dice, no, guarda, mi fa lei. Che le opere d'arte non si possono toccare nessuna. Inutile dire, in quel momento ci ho avuto voglia di dire: guarda, che io proprio qua in mezzo alle gambe c'ho un'opera d'arte che te dovresti toccare alla stragrande. Mi sembrava volgare, me lo sono tenuto per me, ma ci ho fatto presente che ci sono delle opere tipo quelle di Munari, no? Queste tattili così, che se non le tocchi non sono neanche opere d'arte, ma siamo impazziti, come dico io. Però ho voluto fare così un po' il gnorri e sono andato avanti di dire: come non si possono toccare? Lei mi ha detto: e nei musei mi hai visto che si può toccare la Gioconda? La Gioconda, se la tocchi si sgraffia, voglio dire, poi toccare un pochettino anche a lei le farà piacere. Ma quello è un sasso, no? Un sasso così che se lo tocchi cosa succede? Si stacca un pezzo, rimane comunque un sasso, no? Forse si migliora anche un po', dico io. Lei fa no? Quella è un'opera d'arte e la sua sacralità va mantenuta così integra. Mad egg. Che ci siamo arrivati di sto punto con l'arte. Alla ven propria Fneda, non c'è più niente da fare. Saluti della Biennale, ma col cavolo che ci torno ancora. Anche se questa volta alla fine hanno vinto loro. Perché il netto che un artista porta un sasso che la gente non può toccare. Quel del staff lo sgridano la gente che li toccano. Io di entrare ci ho dato 25 euro, un po' li ho legittimati, un po' li ho anche finanziati. Per fortuna che non sono un collezionista, va. Avevo una pazienza, oh.